Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, voce parzialmente recuperata, lo dico per gli ascoltatori anche di Effetto Giorno, ma non completamente. Come potete sentire, vedremo di arrivare alla fine di questa trasmissione in condizioni decenti. Di cosa parleremo oggi? Ovviamente parleremo di mercati. La giornata di oggi, ve lo dico subito, vede in questa ultima fase, in questa seconda parte della seduta, un rafforzamento delle piazze finanziarie europee con il FTSE MIB a Milano che guadagna quasi un punto percentuale, il FTSE OCER lo 0,85, Parigi lo 0,36, Francoforte lo 0,4% e Londra che guadagna lo 0,7%. Nonostante l'America sia negativa, parzialmente negativa, il Dow Jones cede lo 0,05%, lo Standard & Poor's invece guadagna lo 0,13%. È stata una giornata abbastanza volatile quella di oggi, le borse hanno aperto molto bene, poi hanno ripiegato, c'è stato un momento nel quale solo Milano era positiva tra le piazze finanziarie europee e poi appunto, come vedete, le cose stanno migliorando. Sullo sfondo di tutto ciò restano due grandi temi. Uno è quello della tensione tra Iran e Arabia Saudita che continua a crescere e dall'altra parte ovviamente la Cina, e sarà questo secondo tema che torneremo ad approfondire tra un attimo per capire che cosa può succedere nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Considerate che questa mattina la banca centrale cinese ha immesso altri 20 miliardi di liquidità, il livello più alto è una cosa che non faceva sostanzialmente da settembre. Toccheremo questo argomento e parleremo anche di vicende che riguardano più strettamente l'economia italiana, a partire dall'ILVA. Ieri è stato firmato, come sapete, il decreto per la cessione ai privati. Oggi su qualche giornale trovate, anche per chi è interessato e chi è veramente appassionato a queste cose, il bando di gara. Ne parleremo e vedremo di approfondire che cosa rappresenta tutto questo. L'intenzione ovviamente è di vendere ad un italiano, e però insomma questo italiano bisogna trovarlo e non è detto che sia così facile, nonostante ci sia in ballo un prestito ponte per mantenere in piedi l'attività dell'azienda da 300 milioni di euro, o forse ostante proprio questo, perché comunque il privato che rileverà questo prestito dovrà restituirlo allo Stato. Pendente su tutto ciò c'è la vicenda della Commissione europea, che appunto avrebbe intenzione di aprire, lo dovrebbe fare nei prossimi giorni, una procedura di infrazione per aiuti di Stato. Parleremo dunque di Cina, di mercati, di Ilva, parleremo anche di Volkswagen. Ieri dagli Stati Uniti è arrivata notizia che si è aperta, per così dire, la procedura che riguarda l'azienda tedesca per il cosiddetto Dieselgate, e si rischia una sanzione che la cui dimensione in realtà non è ancora chiara, perché qualcuno parla di 19 miliardi di dollari, altre cifre sono ancora più alte. Fatto sta che oggi il titolo in borsa ha perso il 4%. E poi, dulcis in fundo, nella seconda parte della trasmissione, a partire dalle 18, ci occuperemo delle municipalizzate, o meglio non solo le municipalizzate, le partecipate pubbliche, soprattutto quelle degli enti locali. A quanto pare siamo ad una svolta, o almeno lo speriamo in tutta sincerità, perché è un tema del quale ci occupiamo costantemente, ossia il governo nei prossimi giorni dovrebbe varare una serie di decreti che riguardano la riforma della pubblica amministrazione e all'interno di questo inserire delle norme sulle partecipate, appunto. È un progetto di revisione della spesa ma anche di razionalizzazione dei servizi che è molto importante. In termini puramente di spesa c'è un documento molto interessante che vi consiglio, se volete andarvelo a vedere, si trova abbastanza facilmente. È il programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali, che fu firmato da Carlo Cottarelli quando era commissario alla Spending Review, che si avvalse l'aiuto di altri economisti, dal quale risulta, tanto per farvi un esempio, che non sappiamo nemmeno esattamente quante siano le partecipate degli enti locali in Italia, nel senso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha delle cifre. Il Dipartimento delle Pari Opportunità, chissà perché poi, della Presidenza del Consiglio ne ha delle altre, parla di 10.000, mentre il Ministero delle Finanze ne parla di 7.700, e ci sono casi straordinari come delle società partecipate, pubbliche, completamente inutili, cioè che tecnicamente non fanno nulla, ma hanno dei dirigenti e dei dipendenti che supponiamo siano a questo punto, o almeno in gran parte, o politici trombati o parenti di politici in carica o parenti di politici trombati, che evidentemente sono la categoria più bassa e probabilmente saranno solamente operai o dipendenti. Magari c'è anche gente che ci lavora, che si è trovata là, che si tiene il posto e però sta in un posto dove sostanzialmente non si fa nulla. Ne parleremo tra l'altro con uno degli economisti che ha collaborato alla stesura di questo rapporto. Dunque, speriamo che questa svolta arrivi. Nel frattempo ne parleremo e cercheremo di capire quali sono gli snodi, anche per cercare di capire effettivamente quando, per darvi una sorta di misura, no? Per aiutarvi a capire nel momento nel quale arriverà il provvedimento del governo, se questo provvedimento del governo è giustamente misurato oppure no. Le notizie in breve di oggi. E grazie per i consigli naturalmente a chi mi dice di cercare in erboristeria il plantago. Questo mi mancava ancora, mi hanno consigliato l'erisimo o erismo o qualcosa di questo genere, addirittura lo zenzero in infuso fresco, non deve essere un granché . Comunque per questo e anche per cose più serie, cioè il 349-238-6666, tanto per i messaggi quanto per WhatsApp. Oro fermo oggi, ha fatto registrare un lieve rialzo in mattinata, anche sulla scorta di questa volatilità. L'oro si muove spesso, come dire, sulla scorta di tutto questo. A 1.075 dollari l'oncia, petrolio giù dell'1,3% a 36,2 dollari al barile. Abbiamo dei dati che arrivano da Standard & Poor's che riguardano i default, i fallimenti delle società a livello mondiale. Sono quasi raddoppiati, passando da 60 a 112 e raggiungendo i massimi dal 2009, quando furono addirittura 242. La gran parte riguarda società americane, sono 66, i mercati emergenti seguono con 25, l'Europa con 16, gli altri paesi con 5. Nella lista non figura nessuna società italiana, ma guardando ai vari settori interessati, e non è un caso, spicca quello del settore petrolio e gas con il 26% dei default. Non vi devo raccontare io, perché lo abbiamo fatto quotidianamente, quanto sia sceso il petrolio nell'ultimo anno, e quindi è evidente innanzitutto che una quota forte di questi fallimenti di società si concentrino in quel settore, e ancor di più che si concentrino negli Stati Uniti, che hanno vissuto un boom proprio del petrolio grazie al cosiddetto shale oil. Chi festeggia oggi sono i produttori di armi, in borsa naturalmente. Questo è il giorno, ve l'ho raccontato anche il giornale radio, nel quale il presidente Barack Obama si appresta ad annunciare una stretta. Smith & Wesson sale del 12,03%, Sturm Ruger avanza del 7,49%. E perché? Perché nel momento nel quale arriva una stretta ci sarà una corsa ad accaparrarsi le armi. Compriamole prima che mettano regole più rigide, questa è la sostanza. Ed effettivamente è quello che è successo, perché c'è un precedente. A dicembre, in un solo mese negli Stati Uniti sono state vendute più armi rispetto ai mesi degli ultimi 20 anni, con il picco registrato dopo la strage di San Bernardino in California. Questo perché? Proprio perché Obama aveva annunciato una stretta sulle armi. Ora, visto che questa stretta pare che arrivi, ovviamente i tempi evidentemente non saranno brevissimi, i titoli dei produttori di armi volano in borsa. Della causa a Volkswagen per lo scandalo emissioni in arrivo dagli Stati Uniti vi abbiamo accennato. Il Dipartimento di Giustizia ha depositato la causa al Tribunale di Detroit. Volkswagen assicura che continuerà a collaborare con le autorità americane. Intanto dal fronte italiano arriva notizia che l'azienda, il suo branch italiano, vedrà i sindacati metalmeccanici il 20 gennaio presso la sede di Verona. Ci sarà anche l'amministratore delegato Massimo Nordio. Il confronto ovviamente sulle prospettive degli stabilimenti italiani dopo lo scandalo Dieselgate. E no, non credo che la bagna cauda faccia miracoli per la voce, grazie comunque del consiglio. Abbiamo l'inflazione, il tasso di inflazione nell'eurozona a dicembre è stabile a 0,2% rispetto al mese di novembre, questo secondo la stima flash di Eurostat. E poi ci sono i dati dell'inflazione italiana, che rallenta ancora, in media d'anno nel 2015 frena per la terza volta consecutiva, portandosi al più 0,1 dal più 0,2 del 2014. È un anno che è stato segnato da un calo netto dei prezzi dei carburanti, come vedete, ce lo chiedete sempre. Come mai il petrolio cala e non diminuiscono i prezzi dei carburanti? I prezzi dei carburanti diminuiscono, ma meno visibilmente di quanto non faccia il prezzo del petrolio, perché ci sono anche tanti altri elementi che concorrono, a partire da quello fiscale, passando per esempio per costi di raffinazione, insomma ci sono molti altri elementi. Poi può darsi anche che qualcuno ci faccia il furbo, non è che stiamo negando questo. Comunque, il calo è stato del 10,3% nel 2015, una flessione più forte rispetto a quella del 2014, meno 2,1%. Accelera dal lato dell'inflazione il cosiddetto carrello della spesa. Sono i prezzi di alcuni beni alimentari per la cura della casa e della persona che sono selezionati ad indicare appunto con questa figura il carrello della spesa. Un più 0,8% dal più 0,3% dell'anno precedente. Comunque nel 2015 l'inflazione ha toccato il minimo dal 59, prezzi appunto a un più 0,1%. A proposito dei consumi, ci sono i dati del rapporto COP, i consumi cresceranno nel 2016 dell'1,4%, il rialzo maggiore dell'ultimo decennio. Il 2016, dice la COP, è l'anno della speranza. È in realtà un sondaggio che viene fatto dalla COP, secondo il quale per più di un terzo degli italiani appunto è l'anno della speranza, un sesto invece identifica il nuovo anno con il cambiamento, mentre per il 14% è il timore il sentimento dominante. E ancora per chiudere, va bene, ci arriveremo nella seconda parte della trasmissione. Comunque, da indiscrezioni che stanno circolando, e non sono le prime, sul decreto che dovrebbe riguardare le partecipate dagli enti locali e partecipate pubbliche in genere, se per 3 anni consecutivi hanno registrato un fatturato medio sotto il milione di euro, ci sarà un taglio, una razionalizzazione con eventuali fusioni o liquidazioni. E ancora arriva la disciplina sulla crisi d'impresa anche per le partecipate pubbliche. Questo prevederebbe la bozza. Dell'Ilva vi abbiamo detto, è stato pubblicato il bando, in vendita anche 7 società del gruppo. Le manifestazioni di interesse andranno presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio. Di questo parleremo tra un attimo. Intanto iniziamo parlando di mercati e soprattutto di Cina. We'll be right back. so, lo so. Lo so che se mi astengo dal parlare ne guadagna l'emittente, eh. Vediamo di chiudere il capitolo Voce di Spezia per il momento. Andiamo a cose più serie. Anche se alcuni di voi saranno in chiusura di vacanze, quindi lo spirito è ancora allegro. Allora, oggi la borsa cinese ha chiuso in lieve calo dopo lo scivolone di ieri, un meno 7%. A sostegno ai listini si sono mosse le autorità di Pechino, sia attraverso l'acquisto di azioni attraverso fondi pubblici, sia nel caso della banca centrale con un'immissione di liquidità per spingere l'economia. Bentornato al professor Giuliano Noci, docente al MIP, la Business School del Politecnico di Milano, e prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, editorialista del Sole 24 Ore anche. Professor Noci, bentornato. Buonasera a lei, radioascoltatori. Allora, che cosa ci dice della giornata di ieri? Iniziamo da là. Ma di ieri che i mercati sono schizofrenici. Certamente la partenza dall'inizio d'anno dalla Cina non è stata delle migliori, però la situazione, andando oltre le apparenze del momento, è meno peggio di quello che potrebbe sembrare. Io personalmente ritengo che possa essere addirittura salutare. Fino ad oggi Xi Jinping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, ha tergiversato per via di dissidi interni circa le riforme del sistema industriale cinese che sono ormai indispensabili. Faccio riferimento ad esempio fra tutti al tema dell'automazione industriale, che diventa ineludibile perché il costo del lavoro è più che raddoppiato in questi ultimi 5 anni. Bene, questi scossoni potrebbero in realtà accelerare quella che è la vena riformista di Xi rispetto ai conservatori del Partito Comunista, e quindi potrebbe aprire una nuova via, la via che è una via indispensabile, altrimenti la Cina non sarà più così competitiva come è stata nel passato. Ma questo per citare un esempio, ce ne sono anche altri. Il tema della produttività in agricoltura che potrebbe... Lei dice, mi permetta, lei dice uno scossone salutare, e adesso su questo ci torneremo, e vorrei tornare con lei anche sulle altre riforme delle quali la Cina ha bisogno, perché qualche segnale di rallentamento, seppur limitatamente a quello che può essere ovviamente la crescita cinese, lo abbiamo visto, e questo è un punto. Non c'è il rischio invece di proseguire un po' come anche si è fatto, noi ci eravamo sentiti quando ci furono i primi scossoni sulla borsa cinese, è che alla fine la Cina decida che può fare può andare avanti con interventi tampone di questo tipo, perché tanto la liquidità c'è, i quattrini ci sono, i fondi dello Stato, come dire, le aziende di Stato i soldi ce l'hanno, eccetera eccetera, e quindi proseguire in questo modo, ossia arriva la banca centrale, mette 20 miliardi di liquidità, il governo interviene, compra azioni lo Stato direttamente sui mercati, una cosa che ovviamente da noi sarebbe impensabile, e se la risolvono in questo modo? Ma la sua osservazione è molto intelligente, se mi posso permettere. Ho la sensazione però che sono molti nodi che vengono al pettine, e non credo che il Partito Comunista si possa permettere di gestirli in modo incrementale. Quali sono questi nodi? Ma il fatto che comunque le imprese di Stato sono molto indebitate, gli enti locali cinesi sono molto indebitati, le banche non sono messe bene, la popolazione comincia adesso a ribellarsi per quanto riguarda il tema dell'inquinamento ambientale. Ho la sensazione, in altre parole, che ci siano tutti i presupposti per rendere quantomeno auspicabile, a mio modo di vedere possibile, il fatto di una nuova riforma, una nuova era dopo la riforma denghista, perché altrimenti di incrementalismo il Partito Comunista potrebbe perire. E non credo che questo sia salutare per la Cina e per il resto del mondo. Chiaro comunque che l'ipotesi che lei paventa è una delle ipotesi sul tappeto. Credo che però questa sia meno probabile, tenuto anche conto che la Cina vuole guadagnarsi consenso a livello internazionale. Ha appena ottenuto dal Fondo Monetario Internazionale il riconoscimento del renminbi come valuta che entra nei diritti speciali di prelievo. Vuole, anche se non sarà facile nel breve, avere il riconoscimento dell'Unione Europea di essere un mercato aperto. Insomma, molti fattori che, a mio modo di vedere, possono indurre il presidente Xi e il Politburo a introdurre una discontinuità. Comunque stiamo a vedere. Quindi è un tema, ci diceva, essenzialmente politico, insomma, è tutto interno, come è naturale che sia in un sistema istituzionale come quello cinese, tutto interno al Partito Comunista Cinese, di lotta tra conservatori e innovatori, tra questi ultimi c'è il presidente. Ci diceva altre riforme delle quali la Cina ha bisogno. Ma la prima fa riferimento comunque al sistema finanziario, che deve essere ancora liberalizzato. Faccio riferimento al cap fissato per i tassi di interesse sui depositi, faccio riferimento al fatto che non è ancora agevole operare per operatori internazionali sui mercati finanziari. Primo tema. Secondo tema è il fatto che le aziende di Stato non devono essere più supportate e facilitate rispetto alle imprese private, anche perché una Cina che vuole spingere verso l'innovazione è una Cina che non può basarsi solo sulle imprese di Stato, ma deve dare sempre più linfa invece alle imprese private. C'è un terzo tema ineludibile, che è il tema del welfare. Si parla tanto sulle media internazionali e anche in Italia del fatto che la domanda interna cinese debba crescere. Bene, perché cresca occorre alzare la propensione al consumo dei cinesi, anche se comunque cresce a due cifre. E non solo Noci, se mi permette, il tema del welfare è un tema fondamentale per la Cina, anche perché il tema è venuto fuori quando è stata, come dire, definitivamente abrogata la politica del figlio unico in favore di una politica che consenta almeno due figli, proprio perché la Cina sta invecchiando ad un passo impressionante, noi non ce ne rendiamo conto, e però le cifre sono enormi e rischia di essere tra 20 anni un paese di vecchi, molto semplicemente, che non hanno alcun sostegno al reddito e nessuna capacità di spesa. Ha perfettamente ragione, le proiezioni internazionali danno al 2035 oltre il 35% di popolazione è al di là di 65 anni, quindi una popolazione vecchia che deve essere mantenuta sostanzialmente. In realtà in Cina in questo momento non esiste un sistema di welfare adeguato, da un lato, e non esiste neanche un sistema sanitario nemmeno lontanamente comparabile con quello occidentale. Questi fattori impattano negativamente sulla propensione al consumo, e quindi la riforma del welfare è una riforma necessaria da un lato per l'aspetto demografico che lei ha ben stigmatizzato, ma dall'altro indispensabile anche da un punto di vista economico di breve, per alzare appunto la propensione al consumo dei cinesi. Infine, professore, il tema della riforma del sistema finanziario, della revisione del sistema finanziario cinese, mi riferisco in particolare, dico sistema finanziario intendendolo largamente, a quel famoso sistema bancario ombra che tanto affligge e preoccupa le autorità cinesi, cioè il mancato controllo su quanti prestiti abbia contratto la popolazione, perché i prestiti non vengono contratti solo dalle banche o da società finanziarie esattamente autorizzate, ma sostanzialmente un po' da chiunque. È proprio così, e paradossalmente internet ha incentivato questo tipo di fenomeno, lo shadow banking, nel senso che in Cina, ancora di più che negli Stati Uniti, sono nati sistemi di crowd lending, quindi di prestiti tra soggetti rivolti a utenti e soggetti economici. Quindi è un tema molto rilevante. Ricordiamo ai radioascoltatori che questo peraltro è accaduto anche perché le banche cinesi, che sono tutte banche di Stato, trovavano molto più comodo e meno rischioso finanziare le grandi imprese di Stato, e quindi non vi erano incentivi per effettuare da un lato due diligence adeguate a soggetti privati, dall'altro per finanziarli. Ed è ancora per questo motivo quindi che una riforma del sistema finanziario è davvero fondamentale. Per non dimenticare, se mi permette, sì, prego, che il sistema cinese è un sistema molto più federale di quello americano e di quelli occidentali, e c'è una zavorra impressionante nel debito pubblico degli enti locali. Quindi i soldi ce ne sono tanti, le riserve sono numerose, sono molto significative, ma se si deve ripianare tutto forse potrebbero non bastare, e ancora per questo motivo è forse una buona ragione per pensare che le riforme possono finalmente partire. Grazie a Giuliano Noci per essere stato con noi, professore della Business School del Politecnico di Milano e prorettore del polo cinese, appunto, del Politecnico di Milano, il polo territoriale cinese, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Grazie. Qualcuno ci scrive su WhatsApp al 349-238-6666, dice, insomma, parlate di quello che deve fare la Cina, ma guardate la nostra piccola Italia che cresce meno di tutti. La nostra Italia, ci arriveremo, come già vi dicevo nella seconda parte della trasmissione, tratteremo soprattutto oggi entreremo nello specifico nel tema delle partecipate locali, questa sorta di buco nero, come già si diceva in apertura, del quale nemmeno sappiamo la dimensione effettiva, perché poi ci sono partecipate di partecipate e a scendere. C'era, a questo proposito, andrebbe recuperato, io in radio non ve lo posso far vedere, c'era uno splendido schema, lo trovate sul sito lavoce.info, redatto dal professor Roberto Perotti, che è stato consulente di Palazzo Chigi alla Spending Review e se n'è andato perché non era molto soddisfatto del lavoro che si stava facendo, su tutte le partecipate del Comune di Roma. Io vi consiglio, andate su internet, andate sul sito lavoce.info, andatevelo a cercare, ve lo scaricate, perché è veramente impressionante, una vera e propria ragnatela. E quindi di questo parleremo. Detto ciò, perché parliamo di Cina? Perché è un paese da 1,5 miliardi di abitanti, è un traino dell'economia mondiale, e quindi quello che succede a loro può creare problemi anche a noi. Sempre il 349-238-6666 per i vostri sms, così come il numero per WhatsApp. Qualcuno scrive decotto, non so se si riferisca a me o se sia ancora una volta un suggerimento per la voce. Pausa dunque, ci ritroviamo tra un attimo e parliamo di borse. Focus Economia. Eccoci di nuovo, 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. Veniamo alle borse, dunque, borse che chiudono molto bene alla fine, un più 1,20% sul FTSE MIB, un più 0,74% sul FTSE All Share, oddio, molto bene, ma abbastanza bene. Francoforte su di appena lo 0,26%, Parigi dello 0,34%, l'America negativa sul Dow Jones meno 0,16%, e positiva sullo Standard & Poor's 500 più 0,10%. Giornata decisamente volatile quella di oggi. Eleonora Micheli, Radio Corri, Il Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera. Allora, che giornata è stata? Guarda, una giornata all'insegna della grande volatilità, complice ovviamente anche il fatto che il clima semifestivo rende gli scambi più rarefatti e quindi la volatilità in questo caso la fa da padrone. Gli indici hanno più volte cambiato direzione di marcia, nel pomeriggio sono migliorati anche perché il Dow Jones, che a sua volta peraltro è volatile, comunque regge abbastanza bene, in questo momento sta cedendo lo 0,19%, ha dato il là quindi a una serie di ordini d'acquisto. Milano è stata senza dubbio la migliore, sul finale il FTSE MIB è salito dell'1,2%. Questo per quanto riguarda il quadro complessivo. Andrei sui singoli titoli, Eleonora. Bene tutto il settore auto, no? Sì, oggi, ancora oggi, diciamo, i riflettori di Piazza Affari sono rimasti accesi su Ferrari, anche su FCA. Ferrari nel suo secondo giorno di contrattazione è salita del 2,1%, il mercato crede molto in questo titolo che, come ha detto ieri Marchionne, non ha niente a che vedere con l'automotive, ma deve essere paragonato a un titolo del lusso, infatti i multipli sono senza dubbio più elevati rispetto a quelli del comparto auto. Comunque sono andate bene anche le azioni di FCA, più 2,6%. 100%, ricordiamo che a questo punto FCA non ha più niente a che vedere con Ferrari, dovrà fare a meno quindi dei margini di Ferrari. D'altra parte ieri a borsa chiusa sono stati diffusi dati sulle immatricolazioni di dicembre che hanno reso molto ottimisti gli analisti, in particolare il gruppo FCA in Italia ha visto volare le immatricolazioni del 27% contro il più 18,6% del mercato generale. Non solo, ma nell'intero 2015 FCA ha sempre fatto meglio del mercato e ha registrato alla fine un progresso delle immatricolazioni di oltre il 18%, è salita la quota di mercato, quindi oggi diciamo c'è stata una vera e propria pioggia di giudizi positivi da parte di numerose case d'affari. Sì, tra l'altro oggi sono arrivati anche i dati dagli Stati Uniti che sono particolarmente positivi, in particolare per quanto riguarda il marchio Jeep. Di questo tra l'altro parleremo tra un attimo con Andrea Malan del Sole 24 Ore per fare un punto anche sulla causa che è stata aperta nei confronti di Volkswagen negli Stati Uniti per il Dieselgate. Volkswagen che in questo momento perde il 4,3%. Altri titoli da segnalare, mi sembra che complessivamente sia andato male il lusso, vedo Ferragamo giù dell'1,4%, Uxnet a Porté altrettanto, Moncler dello 0,96, Luxottica di mezzo punto percentuale, Tots dello 0,07. In realtà a metà giornata andavano peggio, Sì, il lusso risente ovviamente dell'incognita dell'economia cinese, i dati che sono usciti anche ieri sull'andamento dell'economia cinese fanno un po' tremare gli investitori e ovviamente penalizzano in primis queste case che nella maggior parte dei casi sono molto esposte in Asia e molto esposte in Cina. E poi ovviamente si teme per il rallentamento anche di quelli che sono i flussi turistici nella stessa Europa, non solo da parte della Cina ma anche ovviamente per le minacce del terrorismo e per le tensioni in Medio Oriente, insomma sicuramente saranno le società che verranno più penalizzate. Invece magari sono andate molto bene anche le Finmeccanica, hanno guadagnato sul finale quasi il 4%, hanno registrato forse sì la miglior performance tra i titoli del FTSE MIB, e questo perché continuano a festeggiare la notizia che in verità è uscita ieri sul fatto che con il Ministero dell'Interno è stato siglato un contratto da 450 milioni di euro, quindi una notizia positiva. Il contratto è stato firmato il 31 dicembre, ma la notizia è stata data ieri e quindi subito i titoli hanno festeggiato in borsa. Monte dei Paschi che è il peggiore, -2,7. Monte dei Paschi è da ieri che è succube di una pioggia di vendite, peraltro diciamo che va anche in controtendenza con le altre banche che in linea di massima sono andate abbastanza bene. In questo caso ancora si teme per diciamo i conti della banca che potrebbero essere al di sotto delle attese, adesso è tutto da vedere, evidentemente è una banca che continua a rimanere sotto la lente. Invece le altre banche sono andate sostanzialmente bene, soprattutto continuano a rimanere in evidenza anche le banche popolari nell'attesa che sia annunciato chissà a breve qualche matrimonio. C'è un motivo particolare per il quale Poste ha preso il 3,3%? Ma probabilmente continua diciamo a beneficiare del fatto che da relativamente poco tempo è entrato anche nell'indice principale, quindi è oggetto di acquisti anche da parte di fondi e di grandi investitori istituzionali. Quindi più 3,37%, bene anche Snam più 2,5%, nel Green Power più 2,3%, Unipol più 2,3%, di Ferrari abbiamo detto più 2,11%, Anima più 2%, Intesa San Paolo più 1,9%, così come Enel, Terna più 1,7%, così come Buzzi Unicem, Campari più 1,6%, Saipem 1,5%, Telecom Italia che guadagna un 1,3%, un 1,2% la Popolare Emilia Romagna, così come Atlantia, bene anche Prismian più 1,19%, A2A più 1,14%, Generali più 1,05%, Eni più 0,89%. Tra i titoli che sono andati male oggi anche un po' il risparmio gestito, Mediolanum meno 1,3%, Azimut meno 1,13%, e gli altri titoli in linea di massima l'abbiamo detti, manca Mediaset meno 0,33%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, visto che vi state concentrando prevalentemente sul tema di come io possa fare a recuperare un po' di voce, questo lo devo leggere perché mi terrorizza. Allora, decotto di peperoncino con aggiunta di vin brûlé, foglie di alloro, 3 cucchiai di sciroppo d'acero, qualche goccia d'assenzio. Non so se il decotto di peperoncino è perché sto proprio antipatico, diciamo. Allora, adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi appunto parliamo di auto, lo facciamo con Andrea Malan. Ci sono i dati che stanno arrivando dagli Stati Uniti, tra l'altro appena diffuso i dati anche Volkswagen sulle sue vendite negli Stati Uniti, calate in dicembre del 9,1%. Traffico. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre il 349-238-6666 per gli sms, tanto quanto per i messaggi su WhatsApp. A chi ci chiede di Sebastiano Barisoni, torna domani. Siamo a parlare di auto, a partire dalle vicende di Volkswagen. Volkswagen che in questo momento in borsa cede il 4,23%. Tutto questo dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di un'azione legale contro l'azienda per lo scandalo delle emissioni truccate, un fatto che ha avuto un impatto anche evidentemente sulle vendite dell'azienda negli Stati Uniti. Sono stati diffusi pochi istanti fa i dati di dicembre, fa segnare un meno 9,1% in un anno, il 2015, che in realtà per le case automobilistiche è stato straordinario in America. Iniziamo proprio da qua, iniziamo dall'industria e poi andiamo su quello che succederà in sede legale. Andrea Maranda, Il Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Allora, diamo i numeri degli altri costruttori così li confrontiamo poi con Volkswagen. Sempre il mese di dicembre scorso, Fiat Chrysler ha fatto più 13%, Ford più 8%, GM General Motors più 6%, Nissan, per citare un giapponese, addirittura più 18% e, come hai detto tu, Volkswagen meno 9%. Le osservazioni sono due, poi se volete vediamo anche i dati dell'anno nel suo complesso. Il mercato americano segnerà quest'anno un nuovo record storico, 17 milioni e mezzo di veicoli venduti tra automobili e i cosiddetti light truck, quindi SUV, furgoni, pick-up, eccetera. Supera di pochissimo il valore del 2000, quindi siamo tornati dopo la crisi del 2008-2009 che tutti forse ricordano, con la bancarotta di Chrysler e GM. Abbiamo rifatto tutta la strada in salita e siamo tornati al livello del 2000. Questo vuol dire che i costruttori in America stanno facendo ovviamente un sacco di profitti, vuol dire, comincia a temere qualcuno, che il massimo del ciclo è vicino, anche se ovviamente le condizioni del credito sono straordinariamente favorevoli, nonostante il primo rialzo annunciato dalla Fed, e nonostante come tra i fattori favorevoli rimane anche un prezzo del petrolio e della benzina ai minimi da parecchi anni, quindi questo sta spingendo il mercato americano. Per passare al discorso Volkswagen, il meno 9, ricordiamo che deriva anche dal fatto che Volkswagen ha dovuto bloccare le vendite di un certo numero di modelli con il motore diesel, cioè finché non riuscirà a risolvere il problema. Volkswagen aveva scommesso molto sulla Golf, la Jetta, la Passat con il motore diesel, non le può più vendere proprio fisicamente, per cui ha avuto un taglio delle consegne legato anche a quello. Legato anche al blocco. Ci dice qualcuno, così passiamo direttamente alla parte legale, Andrea, sull'apertura di questa causa per lo scandalo emissioni alla Volkswagen. Ci scrive qualcuno, è l'America che fa pressione, e questa è un'interpretazione che abbiamo letto spesso in giro. Io non so quanto dietro logica e quanto fondamentale ondata è la stessa un po', se volete, che attraversa tutto il tema dello scandalo che ha riguardato la FIFA e che ha portato alle accuse da parte dell'FBI nei confronti di Blatter e altri personaggi della FIFA. Sono mosse degli Stati Uniti nei confronti di, in questo caso, della Volkswagen, per tenere su i produttori americani. Nell'altro caso sono pressioni più geopolitiche che riguardano per esempio la Russia, l'assegnazione dei mondiali e così via. Quindi è un quadro, come dire, dietrologico che abbiamo ben presente, però vorrei capire da te quanto in questo caso è fondata questa idea. Io girerei un po' il discorso, cioè più che Volkswagen sicuramente negli Stati Uniti non ha il peso politico che ha in Europa, è presente, ha anche uno stabilimento, ha circa 6.000 dipendenti in America, che non sono pochissimi, ma ovviamente sono molto poche rispetto ai grandi costruttori americani e anche ai giapponesi, che hanno molte più fabbriche là. Quindi il suo peso politico è ridotto, di conseguenza è più esposta, diciamo, alle ire e alle sanzioni delle autorità. Ricordiamo anche che le autorità negli anni passati sono state molto criticate negli Stati Uniti, non solo quella per l'ambiente, anche l'autorità per la sicurezza stradale, per non aver fatto abbastanza per la sicurezza. Quindi c'è un po' anche di attivismo che in questo caso ha colpito Volkswagen, peraltro l'ha resa responsabile di quella che è di fatto una truffa. In Europa Volkswagen ha un peso molto maggiore, è un costruttore tedesco, e la Germania sappiamo il peso che ha anche a livello di istituzioni comunitarie, quindi tutto il discorso dei limiti alle emissioni che sono meno severi per quanto riguarda gli ossidi di azoto, perché in Europa il motore diesel è molto più diffuso, quindi non si è voluto, anche per motivi politici giustificati dal tentativo di ridurre le emissioni di CO2, non si è voluto penalizzare troppo il motore diesel. Il discorso dei test, insomma, ci sono molti discorsi da fare, diciamo che la dietrologia è forse esagerata, sicuramente qui in Europa Volkswagen ha un peso diverso, infatti vedremo che probabilmente le multe che dovrebbe ricevere in Europa sono ben lontane da quelle che rischia negli Stati Uniti. In Europa ha già avuto via libera, per esempio, dalla motorizzazione tedesca a una riparazione dei suoi motori diesel che costerà relativamente poco. Certo. Mentre invece negli Stati Uniti non si è ancora messa d'accordo con le autorità americane. Ecco, veniamo alla pecunia, perché su questo tema, sul tema di quanti soldi la Volkswagen dovrà pagare per tutto questo, come dire, stanno circolando le cifre di tutti i tipi, insomma, dai 10 miliardi ai 19, ai 90, agli 80, veramente di tutto. Andrea, riesci ad aiutarci a far chiarezza? Allora sì, sono circolate cifre molto. Allora, il numero di auto è 500.000 coinvolti, in realtà sono quasi 600.000 se si contano anche i motori diesel 3 litri che sono montati su alcune Audi, Porsche eccetera. La causa intentata ieri riguarda tutti questi casi. Inizialmente si era parlato di 18 miliardi, facendo un conto della penalità massima per veicolo, che è $37.000, moltiplicata per il numero di auto vendute. Poi alcuni analisti hanno detto non è vero, perché la penalità massima si applicherebbe solo ai primi tot veicoli, poi scende, e c'è chi ha fatto il calcolo di 7-8 miliardi di dollari come rischio massimo. Ieri la Reuters ha scritto 90 miliardi addirittura di dollari, ipotizzando, siccome sono 4 i capi di imputazione, che la stessa penalità venga moltiplicata per 4. 90 miliardi ci fallisce l'azienda, Andrea. Esatto. Ora, non c'è nulla di certo, però è estremamente probabile, in base all'esperienza precedente, che intanto sarà il giudice a decidere, sarebbe il giudice a decidere, quindi il Ministero, il Dipartimento della Giustizia chiede delle penalità, che peraltro non ha ancora quantificato, e poi è il giudice a decidere in base a una serie di fattori, per esempio il fatto che Volkswagen accetti di collaborare, di rimborsare i clienti, eccetera, eccetera. Volkswagen potrebbe anche dire: attenzione, se ci multate per 10, 20, 30, 40 miliardi rischiamo il fallimento. E quindi bisognerà vedere, difficilmente casi come questo arrivano a una sentenza. Di solito ci si mette d'accordo prima. Si arriva ad una transazione, esatto. Dico, specialmente in un caso come questo, Andrea, nel quale la stessa Volkswagen ha ammesso di aver truccato, cioè di aver perpetrato una vera e propria truffa, no? Quindi non avrebbe nessun interesse ad andare in giudizio, no? Diciamo che Volkswagen lo ha ammesso molto in ritardo, questo è uno dei problemi, perché ente per la protezione dell'ambiente aveva già capito che c'era un problema con i motori diesel 2 o 3 anni fa, e Volkswagen ha negato e ha cercato di nasconderlo per anni. Questa è una parte del problema, però quello che dici tu è vero, e fa sì tra l'altro che però in una causa come questa, che ricordiamo una causa civile per danni, non abbia praticamente possibilità di difesa avendo già ammesso il fatto. Diverso il discorso per la causa penale, che non dimentichiamo potrebbe abbattersi sia sull'azienda che su alcuni manager, nel senso che il ministero ha un'indagine parallela di tipo penale per frode. E quindi questo è evidentemente l'altro punto. Nel frattempo, insomma, ci sono i dati e quelli li abbiamo visti. Io ti ringrazio, grazie Andrea Malan del Sole 24 Ore per questo punto, per questi chiarimenti, e buona serata. Arrivederci. (349) 238 6666 per i vostri sms, e anche il numero per WhatsApp. Ci avete chiesto di passare all'Italia, bene, all'Italia passiamo, iniziando da Ilva, e poi nella seconda parte della trasmissione andremo a parlare di partecipate. Allora, è successo che ieri il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha firmato il decreto che autorizza la vendita ai privati dell'Ilva. È stato pubblicato il bando questa mattina che invita le aziende interessate a manifestare l'interesse ad acquistare il gruppo siderurgico tarantino. Un mese di tempo, dal 10 gennaio al 10 febbraio, per presentare le manifestazioni di interesse. Di fatto è l'attuazione del decreto che era stato varato il 4 dicembre dal governo. La vendita deve avvenire entro il 30 giugno e c'è uno stanziamento di 300 milioni, un prestito ponte, così viene chiamato, per affrontare la transizione, che poi dovrà essere ripagato da chi acquista l'Ilva a tassi di mercato. Domenico Palmiotti per il Sole 24 Ore da Taranto. Buonasera Domenico. Eccomi qui, buonasera. Allora, pubblicato il bando, bisogna trovare qualcuno che se la compri. Dal 10 gennaio diciamo si aprono le danze, ci sono 30 giorni come dicevi tu per presentare le offerte. È un avviso internazionale molto largo, nel senso che in questa primissima fase viene soltanto chiesto ai soggetti interessati di dichiararsi, di venire allo scoperto, e dopodiché i commissari cominceranno a vagliare, a fare un'opera di scrematura, e quindi i soggetti che verranno ritenuti in grado di partecipare all'operazione saranno invitati a fare la loro offerta vincolante. L'offerta vincolante poi sarà esaminata e si andrà quindi all'ulteriore fase, che sarà quella della negoziazione esclusiva, quella cioè dove si dovrebbero un po' stringere le fila. Le procedure di cessione devono essere espletate entro fine giugno, però possono essere completate, dice il decreto firmato dal ministro Guidi, entro 4 anni. Sì. Ascolta una cosa Domenico, ovviamente la preferenza sarebbe per un gruppo italiano, ma ci sono interessi oppure no? Beh, gli interessi sono quelli dei nomi che furono fatti già un annetto fa: Arvedi, Marcegaglia, torno in pista ArcelorMittal, ci potrebbe essere qualche altro gruppo straniero, si fa anche l'ipotesi di un gruppo svizzero, italo-svizzero guidato da Volvo, dove ci sono dei manager italiani che in passato hanno lavorato col commerciale dell'Ilva. Ecco, bisogna vedere adesso chi si fa avanti e che cosa proporrà. Allora, io ti chiedo di rimanere in linea con noi, c'è il giornale radio, e poi subito dopo con te vorrei affrontare l'argomento di quello che rischiamo da parte dell'Europa, che potrebbe accusarci di aiuti di Stato. A tra poco. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio È una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, è sempre il 349-238-6666, numero per i vostri sms, anche il numero per whatsapp. Al microfono per questa puntata di Focus Economia sempre Simone Spezia, domani torna Sebastiano Barisoni. Prima della pausa per il giornale radio stiamo parlando dell'ILVA, dopo la firma da parte del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi del decreto che autorizza la vendita ai privati dell'azienda. Qualcuno ci scrive: l'azienda è privata, come fa il governo a venderla? Semplice, è commissariata. Ed eravamo rimasti in sospeso con Domenico Palmiotti da Taranto sul punto che riguarda le procedure di infrazione europee che potrebbero essere aperte, cioè questa è una cosa che continua a circolare da settimane ormai, anche come fronte di tensione tra l'esecutivo e Bruxelles, ma ancora non è sul piatto. Che cosa riguarderebbe, Domenico, questa procedura di infrazione? Ma praticamente Bruxelles ha mandato una lettera al governo italiano dove paventa aiuti di Stato per le misure finanziarie che in varie leggi sono state inserite dal governo e dal Parlamento a favore dell'ILVA. Nel mirino sono i 400 milioni di prestito garantito dallo Stato nella legge 20 dello scorso marzo, la misura che era stata inserita nella legge di stabilità, 800 milioni, i 300 milioni che lo Stato dà all'azienda per questa fase di transizione, e anche questi sono inseriti nel decreto. Per Bruxelles questi sono aiuti di Stato, però il governo ribatte dicendo che questi interventi vanno ad un'operazione di bonifica e risanamento ambientale, e le regole di Bruxelles contemplano che lo Stato possa farsi carico di situazioni ambientali di un certo livello di criticità e problematicità, quale appunto l'ILVA di Taranto. Sì. Da tenere conto anche che con un emendamento presentato dal governo nelle ultime ore, la norma che c'era della stabilità è stata fatta decadere e gli 800 milioni rivivono adesso nel decreto legge, ma non più come prestito garantito dallo Stato, ma come finanziamenti diretti del MISE che andranno all'amministrazione straordinaria. Quindi lo Stato rafforza la sua presenza nell'ambientalizzazione e mette appunto a disposizione queste risorse significative perché il risanamento si faccia. Grazie a Domenico Palmiotti da Taranto. Qualche ascoltatore che si è messo in ascolto solo adesso ci chiede come sono andati i mercati sono andati bene oggi, soprattutto Milano, FTSE MIB più 1,20%, FTSE Share più 1,04%, un po' peggio le altre piazze finanziarie europee: Londra più 0,72%, Francoforte più 0,26%, Parigi più 0,34%, l'America è negativa di mezzo punto percentuale sul Dow Jones e dello 0,29% sullo Standard & Poor's. E veniamo al nostro prossimo argomento, quel mondo incredibile che sono le partecipate. Prima di andare nel dettaglio su questo tema, qualcuno si lamenta e dice: è il solito paese che dà aiuti di Stato alle banche, in questo caso alle aziende private come l'ILVA. Si è ritenuto che l'ILVA, per la dimensione che ha e per l'importanza che ha per il Mezzogiorno, fosse un'azienda strategica, soprattutto lo stabilimento di Taranto. Solo il polo di Taranto, considerate, dà lavoro a 10.000 addetti tra diretti e indiretti. 10.000. Commissariato ad aprile 2013, come sapete, fatturava nel 2011 6 miliardi, nel 2014 3,7, anche per ovvi motivi, ma parliamo di una dimensione enorme. Comunque questo è un altro tema e insomma, meriterebbe forse addirittura una puntata a parte. Veniamo invece alle aziende nelle quali lo Stato è presente. Stato nelle sue varie forme, comuni, province, regioni e lo Stato centrale stesso. Le partecipate italiane. Da giorni si rincorrono le indiscrezioni su questo decreto che dovrebbe arrivare dal governo e che dovrebbe riformare appunto queste partecipate, delle quali tantissime volte abbiamo raccontato, per la fonte di sprechi che rappresentano. In molti casi, in alcuni casi sono gestite virtuosamente. Come al solito, nessuna intenzione di fare tutta l'erba un fascio. Saluto il professor Carlo Scarpa, che è docente di economia politica all'Università di Brescia. Buonasera professore. Buonasera a voi agli ascoltatori. Che ha partecipato tra l'altro al lavoro datato 7 agosto 2014 e scritto sotto il coordinamento di Carlo Cottarelli, allora commissario a Spending Review, che è il programma di razionalizzazione delle partecipate locali. Sono quelle aziende, lo ricordiamo, nelle quali appunto comuni, regioni, province, lo Stato centrale sono o proprietari o azionisti, non necessariamente di maggioranza. Le devo dire, e le chiederei, professore, di partire dai numeri per aiutarci ad inquadrare il tutto. La cosa che ho trovato affascinante è che già nella prima pagina del rapporto voi chiarite che noi non sappiamo esattamente quante partecipate ci siano, nel senso che c'è un numero dato dal Ministero dell'Economia che voi avete preso come quello base, no? Che sono 7.700. E poi però c'è un altro dato che arriva dal, chissà perché, dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che ne indica addirittura 10.000. Quindi già su questo iniziano forse a crearsi, inizia a crearsi qualche problema. Bisogna accontentarsi, sappiamo che sono molte, però questo già ci dice di quale sia la difficoltà di andare a incidere su questo settore, e poi perché i flussi informativi sono ridicolmente complicati e sappiamo troppo poco su questo. Senta, allora, a livello di numeri, complessivamente parliamo di circa 1 milione di dipendenti, no? Beh, così pare. Così pare. Non abbiamo certezza, perché questo è un punto interessante, professore, che se non sbaglio lo sottolineò anche Cottarelli. Ci sono dei comuni, delle province e delle regioni che non hanno alcuna intenzione di fornire le informazioni necessarie a capire che cosa succede nella pancia di queste partecipate, no? Beh, è evidente, se dare informazioni vuol dire che poi mi vengono a creare dei problemi, perché dovrei dare le informazioni. Il problema è sempre quello, il problema è di avere delle norme che riusciamo ad applicare e che qualora ci si trovi davanti a qualcuno che non le vuole applicare, diano luogo a delle sanzioni vere, ma non le sanzioni dell'amministrazione, delle sanzioni alle persone. O riusciamo a incidere su questo, oppure gli individui che hanno in mano queste informazioni non le rilasceranno mai. Certo, tra l'altro esistono anche delle partecipate, così insomma, cerchiamo di dare anche un quadro agli ascoltatori, delle partecipate che non fanno letteralmente niente, cioè ci sono un migliaio, se non erro, di società addirittura inutili che hanno magari o dirigenti o dipendenti e che non fanno nulla, no? Ma allora, non fanno nulla, intendiamoci, magari ci possono essere delle società che non hanno alcun tipo di operatività semplicemente perché detengono delle partecipazioni in altre azioni, in altre società a loro volta, per cui possono essere un po' delle holding che servono semplicemente per organizzare delle partecipazioni azionarie, poi ci possono essere delle società in liquidazione, ci possono essere tante situazioni, sì. Però è evidente che occorre fare molta più pulizia di quanto non ci sia e soprattutto dire agli enti locali: occupatevi di alcune cose, non occupatevi di altre. Certo. Allora, adesso riprenderemo una pausa per il traffico. E poi andremo con lei a queste linee guida che voi avete identificato per la riforma delle partecipate. Qua voglio chiarire già l'ascoltatore che scrive, hai perso la voce a forza di giustificare le scelte del governo. Qua non stiamo giustificando assolutamente nulla. C'è una bozza di decreto che sta circolando, ci sono delle scelte in arrivo. Quello che vogliamo fare col professor Scarpa, che non ha nulla a che fare col governo, questo è bene chiarirlo, è capire quali possono essere le linee guida per una riforma di questo sistema che conta, ci diceva della confusione il professor Scarpa, secondo il dossier Cottarelli 1303 di queste aziende hanno zero addetti, 1732 ne hanno uguali o inferiori a 5, magari alcune sarà anche giustificato perché fanno riferimento ad un piccolo comune, hanno un ruolo molto piccolo, eccetera eccetera, però è vero che la confusione da questo punto di vista è massima e spesso, come abbiamo raccontato in apertura e come ben sapete perché poi vivete la realtà oltre a quello che vi raccontiamo noi, spesso in questi luoghi si annidano o a livelli dirigenziali o anche a livello di assunzioni politici trombati, parenti di politici trombati e via dicendo. E quindi su questo bisogna mettere mano, a partire, come ci diceva il professor Scarpa, dal tema della trasparenza. Noi adesso ci fermiamo, il traffico, e poi sempre il professor Scarpa cercheremo di capire quali possono essere le linee guida per riformare tutto questo sistema. A tra poco. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-66 per i vostri sms, così come questo è il numero per WhatsApp, anche se volete scriverci là. Siamo dunque al tema delle partecipate. Allora, professor Scarpa, dovesse scegliere tre cose da fare subito e da inserire subito nel decreto, che cosa farebbe? Bellissima domanda. Io cercherei intanto di bloccare la creazione di nuove aziende. Questa è una cosa che ahimè è sempre possibile e dovrebbe essere invece sottoposta, secondo me, a dei vagli e a dei controlli estremamente marcati. Quindi ci sta dicendo, professore, che quel rapporto che avete stilato ad agosto del 2014 potrebbe non essere aggiornato perché nel frattempo comuni, province e regioni potrebbero averne create a raffica delle altre. Temo che questo non sia impossibile. Comunque è preciso, il rapporto l'ha scritto Cottarelli e suoi, gli ho dato una mano, mi hanno sentito come persona informata dei fatti, sì. Però non voglio prendere responsabilità e meriti, secondo me, soprattutto in questo caso di altri. Ad esempio in quel rapporto c'era riportato quanto c'era scritto nel vecchio decreto Giolitti del 1903, oltre 100 anni fa, che richiedeva che la creazione di nuove municipalizzate, allora si chiamavano così, fosse sottoposta a un referendum cittadino. Quindi se volete fare che siano i cittadini a approvare questa cosa esplicitamente, non fatelo a umma umma, senza che questo sia noto e che sia chiaro perché la fate, quanto costa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dare un minimo di trasparenza. Vedete che anche oltre 100 anni fa questa era la primaria esigenza, secondo me. Così come avevo sottolineato, ma ahimè purtroppo questa cosa penso si scontri anche con problemi di carattere giuridico, non sono un giurista e di questo non posso che pentirmi, ho suggerito di introdurre degli incentivi economici abbastanza marcati a chi non trasmettesse ad esempio i bilanci, chi non li pubblicasse. Perché è bello dire sì, c'è l'obbligo di trasparenza, l'obbligo di pubblicazione dei bilanci, e se uno non lo fa? Certo, cosa succede? Se tu non ci metti la sanzione, se tu non ci metti la sanzione, evidentemente questi continueranno a non farlo. Perché tra l'altro una sanzione monetaria. Ecco, perché questo è un altro problema, no, professore? Il fatto che a volte i bilanci di queste aziende non sono disponibili e non sono stati disponibili nemmeno al gruppo di lavoro di Cottarelli, inteso non come quello comprendente lei, ma proprio quello della spending review del governo. Ma io ho conosciuto anche un assessore di una città capoluogo che mi ha confessato di non essere stato in grado di mettere le mani sul bilancio di una sua partecipata. E lui era l'assessore responsabile alle partecipate del comune. Per cui in Italia possiamo avere, ahimè, di tutto. Il primo tema è quello. Dopodiché sicuramente il tema della pertinenza delle attività rispetto alle attività del comune, questo è un tema importante, però rischia di essere una norma che è poco efficace, perché non è facile andare a dare una elencazione precisa di tutti i settori nei quali puoi entrare e in quelli nei quali non puoi entrare. Purtroppo tutte le affermazioni generiche rischiano di essere vanificate dai nostri bizantinismi. Sì. Forse avere un qualche vaglio esterno obbligatorio che debba per forza confermare l'opportunità che un'amministrazione pubblica si metta in una certa impresa potrebbe essere necessario, anche se mi rendo conto che questo vorrebbe dire in un certo modo commissariare le amministrazioni pubbliche. Certo. potrebbe nemmeno essere male. C'è un punto ancora sulla trasparenza. Io devo dire che condivido l'SMS che ci arriva da questo ascoltatore Giovanni, che dice: bisognerebbe fare i nomi di comuni e regioni, di comuni, regioni e province, per quel che esisteranno ancora, che non forniscono i dati, perché questo sinceramente io lo trovo inaccettabile. Cioè, se il governo decide di partire con un progetto di razionalizzazione, non questo governo, e quindi non stiamo incensando questo governo, ma anche il precedente e quello prima ancora, quello di Monti, perché la cosa è partita con Monti, ti chiede dei dati, tu questi dati glieli devi fornire, perché è necessario al lavoro che bisogna fare e per fare un lavoro decente. E se non glieli fornisci, anche là, professor Scarpa, anche per questi amministratori pubblici ci vorrebbero delle sanzioni, perché è veramente inaccettabile. Assolutamente d'accordo. Purtroppo sappiamo benissimo che devi sempre risalire nelle catene di controllo, andare a dire chi deve controllare che queste cose vengano fatte, chi impone le sanzioni, e poi quando le imponi questi si appellano, queste sanzioni saranno confermate, eccetera eccetera. Purtroppo abbiamo costruito un sistema estremamente arzigogolato, intervenire sul quale è veramente molto molto difficile, ma questo non vuol dire che non sia necessario, anzi non vuol dire che non sia urgente, è urgente farlo ed è giusto andare in questa direzione. Allora professore, proprio a proposito del tema che ci diceva lei, è sbagliato secondo me imporre, come dire, degli schemi troppo rigidi, soprattutto in tema di quel che le partecipate possono o non possono fare. Oggi, tra le indiscrezioni circolate in merito a questo decreto, nel quale si parla di un giro di vite per gli stipendi dei manager, che fa sempre molta scena, bisogna vedere poi l'efficacia che ha, il rendere più difficile la creazione di nuove partecipate, come ci diceva lei, responsabilità e azioni civili nei confronti dei manager, si parla di una sorta di scure di razionalizzazione se il fatturato resta sotto il milione di euro per 3 anni. Le sembra una misura valida o troppo rigida, considerato anche che a volte le dimensioni delle partecipate non sono enormi e possono essere efficienti pur essendo piccole in certi casi? Ma queste cose, francamente, sono misure che mi lasciano molto perplesso. Io sono molto contrario normalmente a questo neopauperismo di tagliare gli stipendi ai dirigenti o cose di questo tipo. se un dirigente vale è giusto che venga pagato, ci sono dei processi imprenditoriali estremamente complessi e se un dirigente, anche se è dirigente di una impresa partecipata da un comune, gestisce bene un sistema complesso, non vedo perché debba essere pagato poco, anche perché in questo modo rischieremmo di attirare i peggiori, non i migliori. Per cui francamente queste sono misure di cui farei anche volentieri a meno. Però, La scure se il fatturato è sotto il milione per 3 anni? Le sembra la razionalizzazione? Le sembra un... Allora, se è sotto un milione per 3 anni vuol dire in buona sostanza che è un'impresa molto piccola e probabilmente un'impresa molto piccola non giustifica stipendi particolarmente elevati, questo sì, questo può essere corretto. Qualcuno mi scusi, un ascoltatore via SMS, Riccardo, suggerisce già la soluzione agli amministratori delle partecipate, sarà sufficiente farsi fatture incrociate tra società pubbliche per aumentare il fatturato, adesso, francamente, è buona, è diabolica, mi sembra francamente troppo. Ecco, infine tra le indiscrezioni di oggi, professore, la crisi d'impresa anche per le partecipate, e tutto rinviato a un provvedimento ministeriale per la definizione di indicatori fondamentali di rischio. Questo può andare, secondo lei, un avvicinamento al privato, diciamo così, delle partecipate? In astratto sì, dopodiché non so il trasporto pubblico romano come andrà a finire, però sicuramente in astratto un provvedimento di questo genere ci può stare. È chiaro che però, così come un imprenditore che in qualche modo fallisca viene soggetto a qualche inibizione negli anni a venire, allo stesso modo un comune la cui impresa fallisca non è che ne può far ripartire una nuova il giorno dopo che faccia esattamente le stesse cose. Per cui diciamo che è una questione che pone alcune questioni, che pone a sua volta alcune questioni di delicatezza non banali, però il principio mi sembrerebbe corretto, non facile da applicare, ma corretto. La ringrazio, grazie al professor Carlo Scarpa che insegna all'Università di Brescia ed è stato, come avete sentito, non faceva parte del gruppo di lavoro, è stato consultato da Cottarelli quando ha redatto il rapporto, anzi il programma di razionalizzazione delle partecipate locali. Qualcuno dice basterebbe chiudere i rubinetti e non versare più un euro fino a quando non saltano fuori i conti di queste partecipate. Condivido per quel che può valere qualsiasi misura draconiana su questo tema. Grazie a Roberta Frisani in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, la passione si sente.